L'ultima puntata è sui giornali di oggi. La Cassazione ha annullato l'ordinanza con cui il giudice per l'udienza preliminare di Milano ad aprile aveva prosciolto gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana dalle accuse di presunta evasione fiscale per circa 1 miliardo di euro. Secondo l'accusa, la Grif avrebbe creato una società estera, la Gado, con base in Lussemburgo, che di fatto veniva però gestita in Italia. Scatole cinesi che permettevano di pagare il 4% di tasse in Lussemburgo e nessuna tassa in Italia. Una tecnica chiamata esterovestizione, molto in voga paradossalmente nel mondo dell'alta moda. Ovviamente questa è solo una puntata, ci sarà un seguito e quindi vedremo. Ma l'esterovestizione sfila spesso in passerella. L'anno scorso, ad esempio, Cristiana Cavalli, figlia dello stilista Roberto, ha patteggiato 10 mesi per evasione fiscale. Anche in questo caso, per la procura, la società di cui la Cavalli era amministratrice, la IGA Finance BV, avrebbe avuto solo formalmente sede in Olanda. È in corso invece il processo per evasione fiscale che vede coinvolto il patron di Max Mara, Luigi Maramotti, accusato di evasione per 23 milioni di euro. Un'azienda del gruppo avrebbe venduto vestiti da Lussemburgo e Svizzera senza che in questi paesi però ci fosse un magazzino dal quale farli partire. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.